Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt. Torniamo a parlare di biomassa stasera prendendo spunto dal caso della centrale di Sedrina. Sedrina è un paese ai piedi della Val Brembana, in provincia di Bergamo. Basta dare un'occhiata su Google Maps per rendersi conto che è proprio immerso nel verde. Ebbene, a Sedrina nel 2009 è stato attivato un impianto di cogenerazione a biomassa. Sono passati 2 anni e tempo di fare qualche bilancio. E questo bilancio lo facciamo con l'aiuto di Agostino Lenisa, sindaco di Sedrina, anche esperto di sistemi di cogenerazione, ad averceli, sindaci così. Buonasera Lenisa. Buonasera dottor Melis e buonasera agli ascoltatori. Allora, proviamo intanto a descrivere per sommi capi di che impianto stiamo parlando. Un impianto alimentato intanto a biomassa, quindi a scarti vegetali, pezzi di legno. Cippato di legno, scarti di segheria, la lavorazione del bosco. È una centrale in assetto cogenerativo, alimentata da una turbina a vapore da 3 megawatt, brucia circa 35-40 mila tonnellate annue di scarti di legname. È una centrale a servizio di una rete di teleriscaldamento che si sviluppa per circa 9 chilometri. Mm-hmm. Serve interamente la comunità di Sedrina. Quanti abitanti fa, a proposito? Allora, Sedrina sono circa 2600 abitanti. Ok, d'accordo. Però è divisa su due nuclei, diciamo il capoluogo, Sedrina, e la frazione centrale serve solo il capoluogo. C'è una frazione lontana dalla centrale che diciamo non riceve teleriscaldamento. Esatto, non riceve la rete. Il capoluogo conta circa 500-530 abitazioni e di queste 530 il 50% è allacciato alla rete di teleriscaldamento. D'accordo, d'accordo. Quindi complessivamente mi pare siano circa 200 le utenze, vero? 232 per l'esattezza. Senta, quanto è costato l'impianto? Allora, l'impianto è costato 10 milioni circa di euro la centrale, l'impianto cogenerativo, 5 milioni e mezzo la rete di teleriscaldamento unitamente alle singole sottostazioni e gli allacci delle diverse abitazioni, e un milione e mezzo gli oneri urbanistici, progettuali, certo, oneri finanziari. Siete, come va il bilancio economico fino a questo punto? Tra quello che avete investito e quello che state risparmiando e guadagnando anche, perché poi insomma qui c'è produzione di energia elettrica, quindi incentivi e quant'altro. Distinguerei i tipi di bilancio. Il primo, certo, bilancio sicuramente di tipo ambientale è estremamente positivo. Quello economico, in termini riferiti all'utenza e al teleriscaldamento, sicuramente positivi, perché si registrano risparmi attorno al 15%. Che è il classico dato da rete di teleriscaldamento, direi. Esatto, l'abbiamo attestato direttamente, quindi possiamo essere testimoni. Un po' diverso invece l'analisi su quello che è il costo, diciamo il bilancio finanziario complessivo, perché purtroppo, ahimè, da quelli che erano i business plan, i conti, le previsioni di costi al momento della progettazione, oggi ci dà una biomassa, un cippato in continuo aumento con dei costi che sono raddoppiati rispetto ai valori economici iniziali. Immagino poi che voi siate remunerati con certificati verdi, viste le dimensioni, esatto, dell'impianto, e questi sono scesi, quindi dal punto di vista economico le cose diciamo non vanno perlomeno come vi aspettavate. Ecco, senta, come vi approvvigionate? Queste 38.000 tonnellate l'anno da dove arrivano? La maggior parte, diciamo oltre il 90%, la materia viene raccolta all'interno di quello che è la cosiddetta filiera corta, cioè la linea dei 70 chilometri di distanza di raggio dalla centrale. Arriva quasi tutto da fuori provincia di Bergamo, questo ahimè lo devo ammettere, perché sulle valli stiamo raccogliendo molto poco, qualcosa dagli scarti delle segherie, ma la recente crisi economica non sta aiutando di sicuro le attività economiche. Certo, le segherie se sono ferme non producono molti scarti. Esatto. Certo. Sul fronte invece approvvigionamento da bosco, da manutenzione boschiva, i costi, voglio dire, di approvvigionamento, ma soprattutto, dico io, la burocrazia che continua, insiste su questo settore, veramente ci impedisce di sviluppare seriamente una filiera di approvvigionamento dalle valli e dei boschi locale. Ecco, locale, appunto, quello che colpisce, lo dicevo inizialmente guardando su Google Maps, è che voi siete proprio in mezzo al verde, eppure siete costretti a importare addirittura anche dalla provincia di Milano. Quando lei fa riferimento alla burocrazia, alla quale mi pare lei assegni la colpa di tutto ciò, che cosa intende? Qual è il problema? Perché allora non riuscite a utilizzare le piante che vi stanno intorno? Beh, diciamo che la burocrazia in termini di vincoli sovracomunali sul territorio rispetto a quelle che sono le tematiche di manutenzione e approvvigionamento sono quelli imposti dai vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, e per l'amor di Dio, per alcuni versi sono sicuramente giusti nel tutelare, nel voler proteggere, ma diventano dei lacci insormontabili nel momento in cui consorzi forestali o anche semplici cittadini tentano di fare della manutenzione nel loro bosco, Il fatto è che per sfruttare il bosco, per sfruttarlo anche sostenibilmente, in realtà serve una quantità di carta, di autorizzazioni, non banale. No, addirittura abbiamo dei boschi in totale abbandono, la maggior parte delle superfici boscate delle valli sono in completo abbandono con rischi anche di incendio, per esempio. Di smottamenti, dissesti, e purtroppo non c'è verso di riuscire a rendere, diciamo così, remunerativa questa attività che è già di per sé costosa, ma il dato, per esempio, che mi raccontava e mi testimoniava un direttore di un consorzio boschivo qualche giorno fa: il prezzo oggi del legno che viene tagliato nei nostri boschi è 32 volte inferiore a quello pagato negli anni 70. Quindi la materia prima vi costa abbastanza quando la comprate, mi stava dicendo, però in realtà se si utilizza il bosco e si taglia la legna, questa viene pagata pochissimo. Difficile tenere in piedi la filiera, un po' il problema generale dell'agricoltura. Va bene, grazie Lenisa. Grazie mille, grazie a lei. Beh, ci sarebbe anche un altro problema, quello degli scarti vegetali che spesso vengono assimilati a rifiuti con grandi complicazioni burocratiche, ma dobbiamo proprio chiudere, l'appuntamento è per domani. Buona serata.